per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua, musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. In questo venerdì con grande euforia e con una piccola nuvoletta grigia sulla testa, ebbene sì, questo è Chi fa da sé fa per te. E già, siamo qua per raccontare storie di quotidiana sopravvivenza. Questo è il secondo venerdì della forma dell'acqua e meno male che la fortuna che ho è avere degli ospiti quest'oggi. E già, perché noi qui a Chi fa da sé fa per te vogliamo dare voce a chi ogni giorno combatte per mantenere alto il proprio progetto, perché ci crede, e però sono anche tante le difficoltà. A partire dal fatto che io per prima vi devo testare, perché devo vedere se veramente siete coloro che fanno da sé. E intanto allora diamo il benvenuto a Irene e Massimo, buongiorno. Ciao Lisa, ciao. Ciao Lisa, grazie di averci invitato. Buongiorno, allora siamo qui per raccontare una storia che parte da molto lontano. E allora diciamo che possiamo parlare di musica, di passione e di inventiva. E tanto inventiva. Un pizzico di magia. Allora, innanzitutto Irene, perché tu sei qui? Beh, sono qui diciamo per presentare questo libro che ho scritto recentemente, non è ancora uscito tra l'altro, è veramente questa un'anteprima al massimi livelli, ed è il libro che racconta un po' la storia di come è nato il Friday Night Blues. E abbiamo detto già il punto cruciale. Sì. Ma in realtà io mi aspettavo che tu mi dicessi: io sono qui per presentarvi una playlist di musica di alta classe. Esattamente. Eh beh, perché dovete sapere che i nostri ospiti sono testati a partire da una playlist, quindi mano a mano noi presenteremo dei brani e ogni brano però cela una storia in questo caso di Massimo e di Irene. Questi brani assolutamente sono intimamente connessi a noi e alla nostra storia. Allora io direi intanto di partire con il primo, così spacchiamo il ghiaccio. Vai. Allora sentiamo e godiamoci il Tell Mama di Etta James. You've been misused. Talk to me. La nostra Miss Peach è lei, la regina del rhythm and blues, che è negata a più nodi ad un'etichetta discografica che è la Chess Records, che un successo dopo l'altro è riuscita, insomma, un po' a portare in alto anche le parti negative più buie della sua vita. Beh, Etta James, devo dire che è veramente un'icona del rhythm and blues, ha iniziato a cantare 14 anni, la sua è stata una vita veramente di grandi successi e di rovinose cadute, un'infanzia difficilissima, però ha riscattato la sua vita attraverso la musica e questo credo che sia una cosa bellissima. È il riscatto, è il sì. Saper, nonostante le difficoltà, che c'è una possibilità di rifarsi e cogliere l'opportunità. Cogliere le opportunità, sì. Un po' come avete fatto tu e Massimo lungo la vostra carriera. Sì, un po', esatto. Possiamo dire quindi che come nasce questo duetto? Nasce veramente molti anni fa, perché io e Massimo praticamente abbiamo iniziato a suonare a metà degli anni 80. Abbiamo messo su questo gruppo che si chiamava Penelope Rene Franklin, un po' la citazione anche di Aretha Franklin, e facevamo solo rhythm and blues e abbiamo iniziato con questa storia e siamo andati avanti per 15 anni a fare tutti i palchi un po' di tutta Italia. È che stata bello. Un'esperienza bellissima. Lo credo, sarà stato anche difficile poi cambiare strada o evolvere in altro modo. Ma sì e no, nel senso che noi siamo comunque dei macinatori, siamo in continua ricerca, in continua evoluzione, prendiamo un po' di qua e un po' di là, cerchiamo di inventarci continuamente. E tu, Massimo, sei stato anche tu travolto dal carisma di Irene o hai contribuito e come in questo progetto? Beh, diciamo che intanto io dal carisma di Irene, non solo dal carisma, sono stato catturato molto prima. Beh, diciamolo molto, che non è una coppia prima. Solo sul palco. No, assolutamente, siamo insieme da tantissimi anni, abbiamo fatto delle esperienze molto belle, ci siamo amati, ci stiamo amando ancora tantissimo e questa è una grande unione che ci permette poi dopo di affrontare anche delle sfide come quella per cui siamo qua a raccontarti sostanzialmente. E beh, io mi sono fatto trascinare, ma nello stesso tempo, essendo un commerciale di natura, sono stato anche quello che ha creato le opportunità poi per andare in giro per quell'Italia di cui diceva Irene, per cui assolutamente abbiamo due differenti modalità che ci permettono. Siamo molto complementari, esatto, devo dire, esatto. E questo non è poco, perché sai, anche due punti di vista diversi nell'affrontare le cose, nel percepire le cose, ecco, questo è una grande forza della coppia quando funziona, hai capito? Beh, ovviamente pro e contro come tutto, però sicuramente sono più i pro, perché dare l'opportunità all'altro di crescere e dare il consiglio giusto non è da tutti. Spesso quando si creano dei progetti anche tra amici non è facile trovare la sintonia giusta. Sì, infatti devo dire che molti gruppi effettivamente poi si sfaldano proprio per questa ragione, perché poi l'entusiasmo all'inizio viene a meno e dopo incominciano i conflitti. Devo dire che noi quando abbiamo suonato insieme per questi 15 anni conflitti nel nostro gruppo non ne abbiamo mai avuti, anzi poteva esserci il conflitto del abbiamo un'ulteriore idea e non riusciamo a realizzarla, sì, perché ce ne sono così tante che facciamo fatica. Magari i conflitti c'erano tra noi, però li risolvavamo e trovavamo modo di farli diventare del buon carbone da dare in pasto alla locomotiva. Ottimo, allora noi continuiamo con la musica, una grande musica, abbiamo qui Aretha Franklin. I do. I won't. L'altra Lady del Soul non poteva mancare assolutamente in questa scaletta qui a Chi fa da sé fa per te. È un inizio di carriera anche qui un po' triste, un po' infelice, che cade un po' in una profonda malinconia, ma riesce lo stesso anche lei a brillare di nuova luce. È una grandissima, assolutamente, Aretha Franklin ha una voce pazzesca e noi in effetti ci chiamavamo Penelope Irene Franklin proprio perché... Non a caso, c'era un riferimento. Molto preciso. Bene, quindi la vostra coppia sul palco esplode per tanti anni in tutta Italia e poi si nasce qualcosa dentro di voi, un'esigenza di andare oltre. Sì, perché effettivamente l'esperienza che noi abbiamo fatto sul palco, ma l'esperienza anche dei gestori dei locali con gli eventi, con insomma stando sul palco, ci ha permesso di capire un po' di cose e volevamo organizzare noi degli eventi dove al centro fosse la musica e i musicisti, dove ci fosse grande rispetto per questa forma d'arte che per noi ha necessità del rispetto, che tante volte purtroppo invece non c'è. Poi i progetti, secondo me, anche che hanno una miglior riuscita, sono quelli dove c'è un ribaltamento delle parti, quindi chi... Per esempio nel vostro caso dal palco passa a fare l'organizzatore di eventi, sa perché è stato nei panni. Conosci, esatto, conosci tutte le dinamiche. Esatto. Non solo le dinamiche, conosci le mancanze. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu fai spettacolo hai delle aspettative rispetto a quello che ti troverai, che sono aspettative tecniche, voglio dire, quindi il palco, ci sarà qualcuno che saprà fare il proprio lavoro, quindi è una questione tecnica, e poi c'è una questione di accoglienza, perché la musica, dobbiamo pensare che uno spettacolo è una cosa fatta, cioè non è una cosa matematica, è una cosa emotiva sostanzialmente, per cui quello che un artista si aspetta di trovare è un'accoglienza, hai capito? Per poter dare il meglio del proprio sentire. Un contatto. Sì, stare bene per fare stare bene. Questa è la regola, hai capito? Quindi questa è stata la molla. Il punto di arrivo che volevate assolutamente, esatto, come vostro traguardo. Sì, beh, giustamente uno deve sempre porsi un obiettivo che sta un'asticella sopra, perché altrimenti dov'è il gusto? Benissimo, allora noi andiamo avanti con la playlist per vedere che dopo due donne abbiamo un maschietto che maschietto, abbiamo il nostro Marvin Gaye con un brano che è tutto dire. Hands to make me blue with some of the Sì, colui che ha incarnato meglio l'essenza del soul. E anche lui, posso dire che Marvin Gaye ha avuto delle difficoltà a livello, insomma, di industria discografica. Non sempre si è trovato d'accordo, sì, con la sua, con lo perché suo stile artistico. Perché aveva delle idee, devo dire, abbastanza precise. Sì, sapeva dove voleva arrivare anche lui. Sapeva esattamente dove voleva arrivare. Un po' come Irene e Massimo, che sono qui ospiti a Chi fa da sé fa per te. Voi invece a livello di progettualità avete avuto due eventi cardine che vi hanno dato il vero slancio. Sì, Autunno in Musica e Notti di Notte sono state veramente le due mini rassegne che ci hanno dato il là. Anche perché lì è successo qualche cosa di incredibile, inaspettato. Cioè, noi siamo partiti con l'idea proprio e la volontà di creare degli spazi dove la musica fosse in primo piano, vissuta con rispetto, ma soprattutto dove potevamo creare delle emozioni e ci fosse quell'empatia che quando si prova tra pubblico e musicisti che stanno sul palco è veramente una cosa magica. Ma non ci saremmo mai aspettati che effettivamente fosse com'è stato. Ci ha veramente travolti, sì, veramente. Sì, sì, hai detto una cosa, ci ha travolti. E tu, Massimo, sei d'accordo con questo aggettivo? Io sono sempre d'accordo. Sempre d'accordo, anche perché qui sei in minoranza, esatto. Te lo ricordiamo ieri. Sono stati successi sperati ed inaspettati, nel senso che chiaro che quando uno ci mette tutto se stesso si augura sempre che quello che tu fai abbia il risultato che ti aspetti. Certo. Con particolarmente con Autunno in Musica, che era questa mini rassegna che si faceva a novembre, 4 venerdì di novembre, nel piccolo teatro di Calderara, una piccola perla, diciamo, una che contiene 200 persone, e siamo riusciti a creare delle atmosfere con una magia unica. Poi dopo è nata Notte di Notte e in una splendida chiesa di Sacerno, dove comunque si fa poi musica classica, e quindi è nato un progetto diverso che anche tuttora sta funzionando, è già alla sua ottava o nona, alla decima addirittura edizione. Cosa succede? Che quello che abbiamo provato in questa rassegna di Calderara poi ci è piaciuto, capito? Ci avete preso gusto? Ci abbiamo preso gusto. Oh, ma quindi funziona, si può fare, attenzione. Sì, sì. E da lì dopo abbiamo detto, ma senti, perché non cerchiamo il modo di farlo in maniera più continuativa? Prima di tutto è stata un'idea, ok, che è scaturita da noi, è stato bello. È stato un sogno, esatto, un'impronta. Un sogno, per una serie di ragioni, di coincidenze, ti devo dire che si era creato qualcosa che era veramente appassionante, era un'alchimia emozionale. Bello, mi piace. Lascerei questa immagine nell'etere, nelle frequenze, e noi, visto che ci avviciniamo allo stacco pubblicitario, mandiamo il prossimo brano. Voi ovviamente rimanete sintonizzati sui 103.1 perché adesso arriva il bello, attenzione. Allora noi adesso ci godiamo il re, sì, è lui, è B.B. King con Caldonia. We'll be right back. In realtà. Ah, ok, allora no, l'ha presa, sì, l'ha presa. Sì. Allora. Buongiorno, benvenuti. Ciao Lisa, ciao. Ciao Lisa, grazie di averci invitato.